avevo scelto di tuffarmi dentro al mar, di bombole equipaggiata molto bene, boccaglie fine, maschera, ma tutto vano, ahimè, poco mancava che non annegassi lì. Poi col cavallo io ci riprovai perché amica ero di quell'animale mite, ma si impennò e allor priva di sella già mi ritrovai con rotto. Cosa dite voi? Con l'acqua, col cavallo, a piedi, coi pattini e in bicicletta, sì, con panche, corde, sacchi pieni, ho i piedi un bel paio di sci. Ne ho passati tanti di anni a ricercar lo sport per me, ma adesso che ci penso bene, è meglio cavalcare te. L'inverno mi ispirò